si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati. Si può fare, seconda puntata di questo nuovo programma di Radio 24 alla domenica, laddove in molti parlano e fanno molte teorie sui problemi che affliggono l'Italia. Noi cerchiamo di dare spazio a coloro i quali invece si rimboccano le maniche e fanno cose concrete, cose positive che ci fanno stare meglio, insegnandoci che sì, si può fare, si può migliorare la nostra vita, e ci sembra ancora più significativo in questo periodo nel quale tutta l'Italia è chiamata a fare uno sforzo collettivo con il governo Monti per riformarsi, insomma per cambiare. Scriveteci a sipuofare@radio24.it per raccontarci le vostre storie, oppure telefonate alla nostra segreteria telefonica 828 12 12 e lasciate un messaggio con la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ma vi aspettiamo tra poco anche in diretta per rispondere alla nostra domanda della settimana. 800 24 00 24. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. È bello così entrare in questo clima, non dal punto di vista meteorologico, perché per il sole quello vero dovremo aspettare ancora qualche mese, ma in questo clima così di allegria, è un clima morale, pedalare in allegria. Fra l'altro oggi a Milano è una bella giornata e quindi un momento ideale per uscire a fare una bella pedalata. Intanto però proprio a Milano è stata la settimana del battesimo dell'area C, cioè dell'ingresso a pagamento nella cerchia del centro della città. C'è un sondaggio dell'Università Statale su Twitter riportato dal Corriere due giorni fa che dice il 79% dei milanesi promuove il pedaggio. A dire il vero, l'ingresso delle auto in centro è molto diminuito, meno 35% in media, fa sapere il Comune. Sono diminuiti anche molti elementi inquinanti nell'aria, anche se le PM10 sono rimaste per ora stabili, quindi meno congestione, ma l'inquinamento è dura abbatterlo. Ecco, il Comune insomma chiede uno sforzo un po' a tutta la cittadinanza, a Milano, per migliorare la viabilità e anche per migliorare la qualità dell'aria. E allora, per alleggerire questa situazione, una piccola società di Milano, piccola nel senso numero di dipendenti, ha pensato bene che qualcosa di concreto si poteva fare per venire incontro ai cittadini, in questo caso ai suoi dipendenti, e cioè regalare una bicicletta ai dipendenti di questa società. Loro l'hanno fatto, li salutiamo. Buongiorno a Sergio Barozzi, partner di L'Excellent, uno studio legale di Milano. Buongiorno. Allora, com'è andata il debutto con questa vostra iniziativa, e soprattutto i vostri dipendenti, immagino quasi tutti avvocati, la bicicletta l'hanno poi usata per venire a lavoro? Il debutto è andato bene perché abbiamo avuto il sole, quindi in questi giorni sono stati giorni buoni per pedalare, anche se un po' freddi. Sì, diciamo che la risposta è stata positiva, il grosso usa la bicicletta per venire in ufficio, e chi non abita, l'unica collega che abita fuori Milano e che ovviamente non può venire in bicicletta, l'ha messa in garage lì da noi e la usa tutti i giorni per i movimenti cittadini, per andare a trovare i clienti, per andare in tribunale, insomma, dallo studio verso la città. Ecco. Avete calcolato quanta CO2 avete fatto risparmiare? No, sarebbe un po' difficile. Troppo complicato. Però, siamo, senta, ingegneri, noi siamo avvocati. Certo. Ci racconti un po' però come è maturata questa decisione, perché insomma sappiamo che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Una piccola cosa, un piccolo contributo che voi avete pensato, poi però concretamente vi siete messi lì, l'avete fatta, avete comprato quante biciclette esattamente? Abbiamo comprato 12 biciclette. Abbiamo 12, io ce l'ho già, quindi sarebbe un altro mio collega ce l'aveva già, quindi di fatto sono 14 biciclette, 12 comprate ex novo e due già esistenti, due vecchie. Insomma, un modo anche per così rispondere in allegria, simpaticamente, perché naturalmente non nessuno pensa di poter risolvere il problema del traffico così a Milano, però invece è un piccolo segnale che può arrivare da voi anche ad altre aziende magari. Ma sì, io credo che una città come Milano, che è relativamente piccola, e per chi lavora in centro, per chi è dislocato in centro, la bicicletta sia un mezzo di trasporto davvero alternativo ad ogni altro mezzo, più rapido, più veloce, più comodo, è più divertente, quindi speriamo, insomma, che sia un esempio che sia seguito. Poi forse anche un modo per dire ai colleghi che bisogna pedalare, insomma, per stare sul mercato, e quindi, insomma, c'è anche un messaggio sublimale sottostante da prendere, ecco. E va bene, allora, insomma, una piccola storia da Milano, però ci sembrava il giusto spirito. Allora, grazie a Sergio Barozzi, partner di L'Excellent a Milano, e naturalmente buone pedalate. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. E allora, un po' su questo che questa settimana vi vogliamo sollecitare, cari ascoltatori: si può fare, si può abbandonare l'automobile nelle città ormai sempre più congestionate per scegliere invece altri mezzi di trasporto, mezzi pubblici, biciclette, auto elettriche, pattini, monopattini, tutto quello che volete, tutti mezzi meno inquinanti, più agili naturalmente, e che ci causano anche meno stress e magari, come nel caso della bicicletta, ci fanno risparmiare anche i soldi della palestra. Chiamate all'800 24 00 24 e raccontate, fateci da inviati nelle vostre città come state già vivendo una vita senza auto e come questo vi faccia stare meglio. Ma che facciamo? Andiamo col sommario della puntata. Dunque, perché oggi parleremo non soltanto di questo, ma anche della prima libreria a chilometri zero, sempre a Milano, ma è un caso se ci occupiamo per due volte di seguito della nostra città, dove noi viviamo e lavoriamo. E poi parleremo anche di una nuova frontiera della resistenza alla mafia, a Palermo, un battesimo pizzo free. Poi parleremo della processione di Castellammare di Stabia e della battaglia del sindaco di questa città contro la cattiva abitudine di onorare tutte le volte al passaggio della processione i boss locali. E infine un progetto di cooperazione e formazione che è stato ribattezzato La Scuola, che costruisce una scuola in Veneto e Friuli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mi stavo domandando, mi interrogavo sul mio lavoro. Ecco, e mi sono... Voglio dire, ma che cosa faccio io esattamente? Tutto quello che faccio è mandare avanti una libreria per bambini. Tutto quello che fai è una cosa incredibilmente nobile, lo sai. Beh, no, non lo so. Kathleen! Io mi sento come se... Sei un fiore solitario. Tu sei un fiore... solitario? Che se ne sta alto a fluttuare coraggiosamente tra le corrotte sabbie del commercio. Sono un fiore solitario. Proprio così. Io sono un fiore solitario. Ci sono tanti modi per migliorare la mobilità e cambiare le nostre abitudini. Per esempio, se io non voglio trasportare le persone vicino ai loro interessi, posso avvicinare questi interessi alle persone. Nasce così a Milano la libreria Chilometri Zero, ed era questo l'omaggio del film C'è posta per te, che avrete riconosciuto, il film dell'86 con Tom Hanks e Meg Ryan, che narra proprio la storia di una libraia. La notizia qual è? È che nasce appunto a Milano una libreria che si definisce Chilometri Zero. Niente titoli stranieri, niente bestseller, niente colossi dell'editoria, solo romanzi, saggi, antologie dati alle stampe da piccole case editrici. Leggiamo da un articolo sul sito ilpost.it. La risposta letteraria a Slow Food arriva da Milano, dove aprirà a fine marzo Slow Bookstore, 250 metri quadrati su tre piani, caffetterie, connessione wifi, vendita di ebook e quant'altro. Per avere tutto questo, però, gli editori dovranno pagare una quota iniziale, 800 euro per 2 anni e mezzo al metro quadro, al metro lineare, per poter essere presenti in questa libreria. Ne parliamo con Renzo Xodo, che è il libraio fondatore di questa iniziativa. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci spieghi che cos'è, perché una libreria a chilometri zero? Qualcosa abbiamo detto noi, che cosa troveranno di diverso i visitatori, insomma i lettori interessati, quando entreranno nella vostra libreria? Beh, troveranno la presenza di circa 25.000 titoli di editori indipendenti, quindi piccoli e anche non piccolissimi, indipendenti, cioè non facenti parte delle grandi major dei gruppi editoriali italiani. 25.000 titoli sono un numero spropositato rispetto ai titoli che si trovano nelle librerie più tradizionali, è di una editoria poco conosciuta e che però ha titoli di grande interesse, lo dimostrano i successi di tutte le fiere che si fanno nel campo dell'editoria indipendente. Senta, qualcuno vi ha un po' criticato perché dicono fate pagare, dunque favorireste solo gli editori che possono permetterselo, però questi editori si sono già fatti avanti, sono parecchi piccoli editori, vuol dire che in qualche modo gli conviene, anche perché altrove, nelle grandi librerie, questo lo sappiamo, e molte piccole librerie invece stanno chiudendo, non trovano spazio. Esattamente, si è fatta una polemica un po' sterile secondo me su questo piccolo contributo che chiediamo agli editori, che è certamente un contributo in denaro piccolo, qualsiasi anche piccolo editore se lo potrebbe permettere, cioè sono 27 euro al mese, insomma, sostanzialmente, quindi un caffè al giorno, per avere uno spazio dove di solito non c'è. Quando si va a Roma alla fiera del libro si paga. Noi non siamo degli organizzatori di fiera, la nostra è una libreria che si propone una costante visibilità per questi editori, e preferirei che si parlasse di più di questo, oltre che sì, del contributo, che comunque è chiaro a tutti e uno se ritiene partecipa, se no no, certamente non costituisce una discriminante. Senta, le piace l'accostamento al tema della puntata di oggi, che è la mobilità? Voi stessi vi definite a chilometri zero, e il riferimento è al fatto che, credo di aver capito, voi saltate il passaggio tra l'editore e la libreria, cioè il distributore, perché fate un collegamento diretto. Noi abbiamo parlato di mobilità proprio a Milano, tra l'altro. Sì, l'accostamento mi piace molto ed è appropriato, perché le ripeto, 25.000 titoli che lei non trova in tutte le grosse librerie o piccole o medie librerie di varia cosiddette, è un accostamento decisamente appropriato, perché permette a chi viene in libreria di trovare il catalogo degli editori che hanno aderito, insomma, quindi ogni editore metterà in libreria tutto il proprio catalogo, non solo le ultime novità, e questa è la grossa novità, insomma, sostanziale di questa libreria. Tra l'altro devo dire che leggendo la classifica dei libri più letti, sì, di questa settimana, si vede che insomma c'è qualcosa che non va. Fabio Volo, con tutto rispetto per questi autori naturalmente, Fabio, sì, Volo, Le prime luci del mattino, vabbè, non stiamo neanche a citare i titoli, basta il nome dei personaggi. Sì. Secondo posto Giorgio Faletti, terzo posto Vasco Rossi, quarto posto vabbè, poi c'è Margaret Mazzantini, poi, sì, in altissimo posizione Ibrahimovic, insomma sono tutti personaggi notissimi, insomma è evidente che, ripeto, con tutto il rispetto per questo tipo di letteratura, di romanzi, di saggistica, tutto quello che volete, il filtro principale ormai per entrare nelle librerie è proprio quello della notorietà. Voi proponete qualche cosa di diverso. Qual è il mondo, l'universo che volete in qualche modo di svelare, scoprire? Pensate poi che ci sia un interesse da parte dei lettori a tutto questo? L'interesse c'è, lo dimostra la partecipazione e la vendita che c'è di libri alle fiere. Tutte quelle che vengono organizzate ormai sono molto numerose, dalla fiera dell'amico editoria di Chiari a quella di Roma, naturalmente che è la più importante, allo stesso salone a Torino, gli stand degli editori indipendenti sono molto molto frequentati e si vendono. Qualche libreria ha tentato qualche esperimento e è andato bene, nel senso che se i libri vengono esposti, non tutti naturalmente i libri degli editori indipendenti sono bellissimi e interessantissimi, anche lì c'è di tutto, insomma, naturalmente, però lo sforzo che fanno questi editori indipendenti, proprio perché non hanno la possibilità di permettersi Fabio Volo o i Faletti, è la ricerca costante di scrittori nuovi in Italia e all'estero, naturalmente. Lei pensi solo al caso di Iperborea, una piccola casa editrice che ormai sta diventando importante perché ha scoperto e incoraggiato il filone cosiddetto nordico, e nessuno ci aveva pensato prima di loro, insomma, no? Quindi è stato un caso, diciamo così, letterario abbastanza emblematico. La letteratura spagnola, ispanoamericana, giapponese. Però voi farete soprattutto, se non ho capito male, titoli italiani oppure no? No, beh, certo, le case editrici che noi ospitiamo sono italiane, ce ne sarà una tedesca e una svizzera, ma in lingua italiana, quindi sostanzialmente italiane. Però gli piccoli editori o editori indipendenti vanno alla ricerca di autori in tutto il mondo, certo, perché partecipano a, alla fiera dei libri internazionali di Londra, di Francoforte, insomma, si comportano in piccolo come i grandi editori, insomma, quindi... Voi stessi avrete un filone principale oppure lo spazio, diciamo, dato ai piccoli editori sarà totalmente democratico e quindi equanimemente redistribuito? No, no, gli editori saranno naturalmente organizzati per casa editrice. Noi all'interno degli spazi espositivi, diciamo, centrali della libreria organizzeremo 4 mostre tematiche ogni mese e quindi per aiutare anche il lettore che sarà un po' disorientato all'inizio in una libreria organizzata per editore e non per argomenti come ormai quasi tutti fanno. Allora noi faremo delle mostre tematiche, 4 ogni mese, e tutti i libri dell'argomento che so, cucina italiana, uno a caso naturalmente, ciascun editore che ha volumi di questo argomento verrà esposto nei banchetti centrali per un mese, così da far ruotare anche le tematiche, esatto, e non soltanto gli editori. E non soltanto gli editori, certo. Benissimo, apertura a marzo, sapete già quando esattamente? Esatto, non è ancora possibile stabilirla per questioni tecniche, di lavori, insomma, i lavori sono ancora in corso, insomma, quindi, però entro marzo. E allora grazie e buona giornata a Renzo Xodo, libraio e fondatore di questa libreria Chilometri Zero. Ci vedremo lì nel centro di Milano. Buona giornata. È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre. È per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è. Ninna na, ninna e. E per te caro piccolo Flavio, un bambino di 4 mesi di Palermo, è per te che i tuoi genitori hanno organizzato un evento speciale oggi nella tua città, il tuo battesimo, un evento di carattere naturalmente spirituale ma anche un fatto pubblico e commerciale perché c'è il rinfresco, ci sono i regali e quant'altro. E questo battesimo, caro Flavio, che i tuoi genitori ti hanno organizzato oggi a Palermo, ha una particolarità, un battesimo in terra di Sicilia che i suoi organizzatori, mamma Valeria e papà Fabio Messina, hanno voluto pizzo free. Che cosa vuol dire? Lo chiediamo proprio al papà di Flavio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te. Siamo qui intanto sul pullman in arrivo a Caccamo, il posto in cui verrà battezzato nostro figlio. La particolarità di questo battesimo è il fatto che tutto quello che ci è servito ci viene da commercianti che non pagano il pizzo alla mafia. Quindi da questo, dall'inglese pizza free, quindi senza pizza. Il principio è sempre lo stesso di quello del negozio, abbiamo un punto pizza free, un negozio all'interno del quale vendiamo tutto senza pizza, quindi i nostri fornitori non pagano il pizza alla mafia. Qualche anno fa abbiamo fatto anche il nostro matrimonio pizza free, tutto non è tanto per rendere pubblica questa nostra iniziativa, ma è tanto per incitare anche gli altri a fare qualcosa di simile, significa che nella legalità si possono fare anche degli avvenimenti, degli eventi che sono importanti nella nostra vita. Tra le altre cose, quello che stiamo dimostrando è che quindi si può fare, come ho detto prima, un'operazione del genere. Noi siamo ben lieti, eventualmente ci fossero altri papà e mamme, oppure futuri sposi che si volessero appoggiare a questa economia legale per organizzare matrimoni, oppure battesimi, lauree, insomma quello che facciamo è veramente tanto. Fra le altre cose siamo nelle condizioni di poter far anche risparmiare nel fare queste preparazioni. Ecco, ma vogliamo dire per esempio quali sono le spese che siete riusciti a fare avendo questa garanzia di pagare delle imprese che non pagano il pizzo a loro volta? Intanto c'è da dire che a differenza del matrimonio ovviamente quello di cui abbiamo soffrito è nettamente inferiore come partecipazione da parte di questi fornitori, cioè noi abbiamo fatto confetti, abbiamo fatto intrattenimento, diciamo che questo è stato quello che maggiormente ci ha aiutati a fare questo avvenimento. Poi c'è per esempio una cantina che si è sentita al Social Alto Bellici che ha fatto un'offerta dei vini. è un altro nostro fornitore, ci ha offerto uno spumante. Ma tutto questo perché, non tanto per pubblicizzarsi, ma tanto perché abbiamo instaurato comunque un ottimo rapporto e quindi hanno voluto fare questo per me. E come ricordava anche lei, questo battesimo Pizzo Free segue al vostro matrimonio, che è stato altrettanto Pizzo Free. Avete una bottega, un negozio in centro a Palermo dello stesso genere. Ci sono molte iniziative, una delle ultime è quella delle agenzie di viaggio, per esempio Pizzo Free, cioè si organizzano dei viaggi in Sicilia cercando di appoggiarsi su aziende che non pagano il pizzo. Qual è la risposta della Sicilia e dei cittadini di Palermo, per esempio, dove lei abita, a queste vostre sollecitazioni? Allora, intanto devo precisare che chi si occupa dei viaggi in particolare è Addio Pizzo Travel, che sarebbe una branca dell'associazione Addio Pizzo. Noi comunque siamo un punto nel quale questi operatori turistici portano dei gruppi che vogliono vedere qualcosa che si sta muovendo nel senso positivo nella nostra città, quindi nel giro turistico che fanno li portano anche al nostro negozio per far vedere che comunque c'è stata un'evoluzione. Siamo aperti da 4 anni in un periodo che tanti additano come un periodo di crisi, abbiamo visto aprire e chiudere tantissime altre attività, quindi vuol dire che la nostra è sana. Sicuramente ci piacerebbe incrementare i nostri fatturati. E allora grazie e buon battesimo a Papa Fabio. Grazie a voi e buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, vi stiamo domandando all'800 24 00 24, si può fare, si può abbandonare l'automobile nelle città congestionate per scegliere invece altri mezzi di trasporto, mezzi pubblici, auto elettrica, biciclette, monopattini, tutto quello che volete, mezzi meno inquinanti sicuramente, ma ci fanno anche risparmiare in termini di stress e forse qualche abbonamento in meno in palestra, come nel caso della bicicletta. E allora chiamateci, raccontateci se state già vivendo una vita dove l'auto è solo un cattivo ricordo. E tra l'altro, a proposito di mobilità, ci sono 2 o 3 buone notizie questa settimana. Per esempio, a proposito di Milano, abbiamo parlato di area C, al di là dei bilanci che presto forse per farne, il comune ha stanziato 500.000 euro per l'erogazione di abbonamenti annuali all'ATM, ai mezzi pubblici della città, gratuiti per disoccupati, cassa integrati e giovani precari. E poi si parla tanto di biciclette e non sono un mezzo solo usato magari nelle città del nord più raffinate dove c'è un certo tipo di gente. No, il bike sharing debutta anche a Benevento, un sistema fotovoltaico che alimenterà una bicicletta a pedalata assistita, tra l'altro, quindi si faticherà anche un po' meno dove magari ci sono anche delle piccole salite in questa città, e quindi questa è la buona notizia che viene oggi da Benevento. Vabbè, per vederne una di notizie davvero clamorose tocca andare in Germania, dove sono talmente avanti che stanno costruendo l'autostrada per le biciclette, una roba incredibile per noi solo a pensarci, una strada che collegherà Dortmund a Duisburg, larga 5 metri, dove le biciclette potranno dare libero sfogo naturalmente e con loro i ciclo amatori. Abbiamo un paio di telefonate, Federico che ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Cosa ci racconta lei della sua città? Allora, io racconto che sono 2 aspetti negativi, secondo me uno positivo. Negativi sono che le ciclabili sono state fatte, ma sono non mantenute, non sono separate dalla strada dove passa dell'automobile, quindi sono estremamente pericolose. La buona notizia è che c'è Bicimia, che è un servizio di nolo biciclette a breve termine. Si possono prendere biciclette in tante postazioni per la città, gratuitamente fino a 45 minuti, poi si possono rimettere in queste postazioni, le bici sono solitamente ben tenute e molto valide. Un sistema molto costoso o poco costoso? Non è costoso, diciamo che fino a 45 minuti lei non paga nulla, dopodiché scattano alcune tariffe sempre molto basse. Va bene, grazie Federico, da Brescia. Abbiamo Claudio che ci chiama da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei che cosa ci racconta? Certo, io volevo fare soltanto una riflessione, anche perché penso che la telematica, come prima si diceva in merito ai libri e quindi a questo libro Chilometro Zero, che è un'ottima cosa, come mai non venga incentivata la remotizzazione telematica per quanto riguarda il lavoro? Cioè, mi riferisco a tutte quelle persone che vanno in uffici. Cioè lei dice il telelavoro, incentivare il telelavoro, è questo il tema? Esatto, è stato proprio un inizio che fece credo Telecom o altri, ma è proprio uno spazio minimo, non ancora molti si spostano in massa per stare poi davanti a un computer. Va bene, grazie, anche questa è un'idea, Claudio da Firenze, la approfondiremo magari in una delle prossime puntate. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. È il demonio, annidatosi nella gola del fanciullo, ostruiva il passaggio di Gesù. Non lo toccate che è ancora fresco, non con la dita in bocca che vi avvelenate. E il comunicando sconvolto e insipiente fu colto all'improvviso da un desiderio folle di fuga che lo condusse fin sulla cima di un alto muro. Non so quanti avranno riconosciuto il film da cui è tratto questo brano. Per grazia ricevuta, un bellissimo film di Nino Manfredi, regista, 1971, è la storia di un bambino che crede di essere in qualche modo un veggente, un predestinato. A un certo punto viene coinvolto in questa processione in onore a Sant'Eusebio, insomma succede un po' di tutto, però la trama non è importante. Quello che è importante è che questo film ci fa capire che l'Italia è un po' il paese delle processioni. Ogni paese, specialmente nel centro-sud, ha la sua. Anche Castellammare di Stabia, croce e delizia del sindaco Luigi Bobbio, perché naturalmente è un momento di socialità, di vita paesana, ma anche un momento, un'occasione, la processione di Castellammare di Stabia, dove tradizionalmente viene resa onorificenza in qualche modo ai mafiosi, ai pregiudicati locali. Ebbene sì, forse l'avete letto sui giornali. E allora il sindaco Luigi Bobbio, buongiorno, che noi abbiamo qua con noi. Lei, prima della processione che si è svolta giovedì scorso, aveva detto: prima di tutto niente pregiudicati a trasportare l'immagine che raffigura qual è il santo di Castellammare di Stabia? San Catello. E poi niente sosta soprattutto davanti alle abitazioni, perché guarda caso il percorso passa nel centro e ci si passa sempre davanti alla casa di qualche boss locale e viene sempre fermata la processione in segno di rispetto, chissà cosa. Sindaco, com'è andata a finire intanto la processione giovedì scorso? Sono state rispettate le sue richieste? Abbiamo avuto un incontro con il vescovo, nel quale ci eravamo ovviamente intesi, non avevo dubbi che potesse accadere questo, circa la necessità di non effettuare la sosta dinanzi alla casa del camorrista di quella zona e circa il fatto che si dovessero consegnare alla Polizia di Stato gli elenchi dei portatori. Quindi, come dire, in qualche maniera si era tranquilli quella mattina, se non che iniziata la processione io comunque avevo qualche remora circa la fedeltà e la lealtà dei portatori dell'assalto nei confronti delle direttive che certamente il vescovo aveva loro impartito, e infatti puntualmente si è verificato, penso che si sia visto anche qualche filmato, questa fermata c'è stata, in questo caso violando non solo una precisa disposizione delle autorità civili, anche il prefetto si era mosso in questa direzione, ma violando anche una direttiva della Curia, tant'è che la Curia poi oggi è uscita con un comunicato in cui dà atto della necessità di andare a rivisitare profondamente sia la composizione soggettiva di coloro che formano la squadra dei portantini, sia circa l'inopportunità, anzi l'opportunità che non si verifichino mai più soste di questo tipo. Quindi insomma la Curia, che inizialmente invece aveva detto no, non c'è stata nessuna sosta eccetera, poi di fronte ai numerosi video insomma che sono stati pubblicati e si vede chiaramente che questa sosta c'è stata, adesso ha fatto una piccola marcia indietro. Io però le chiedo, sindaco, questo infatti, se posso permettermi, quello che mi dispiace molto è questo, che sembra quasi che sia necessario che si arrivi a determinate evidenze. Però meglio tardi che mai, sindaco. Io quello che le chiedo è, lei fra l'altro sulla legalità è particolarmente impegnato, è un magistrato, credo, in aspettativa, perché proprio in occasione delle processioni succede questa cosa qua? Cioè, qual è la verità non detta che invece poi di fatto viene messa in pratica? Cioè, questa cosa di riverire, di onorare proprio i pregiudicati, i boss. Di profondamente radicato purtroppo nel fatto culturale. Io lo chiamo pseudoculturale, perché questa non è cultura, diciamo, certo. Questa è tradizione fra le peggiori. Nel sud c'è qualcosa, indubbiamente, che riguarda questa fascia grigia, questa zona un po' oscura. Addirittura abbiamo casi di zone proprio palesemente di palese connivenza, ma sono casi isolati o comunque casi singoli. Ma c'è una fascia grigia di questa che affascia, unisce questa religiosità diffusa, divisa fra molto malsano, ovviamente, fra mafiosi, malavitosi, camorristi in genere, e come dire, una forma di disattenzione, la vogliamo chiamare così. Però poi diventa un modo per garantire un riconoscimento e un'identità culturale a queste persone, questo, che invece non deve essere così. Tra l'altro lei, sindaco, poi a maggio ci racconterà come va con la prossima processione, se passettino passettino migliora sempre di più. Lei è stata protagonista anche di un'altra iniziativa che invece rimanda alla festa dell'Immacolata, se ben ricordo, nel vostro paese, dove c'era una tradizione di fuochi d'artificio selvaggi con scontri con la polizia, un sacco di putiferi in città. Voi avete trovato una soluzione, anche questa, insomma, più civile. Tutto serve a fare in qualche maniera, purtroppo nella mia realtà, ma non è la sola, almeno fino a quando sono stato eletto io, serviva a creare una forma di visibilità, ovviamente molto negativa, per queste organizzazioni criminali. Fra queste forme di visibilità, quindi anche di riconoscimento da parte di determinati settori della società, c'era anche questa tradizione, che era una tradizione nobile e noi la stiamo riportando essere tale, dei falò. I falò dell'Immacolata, cioè non erano fuochi d'artificio, ma cataste di legna accese per quasi una sorta di gara fra i rioni per chi la faceva più grande e più bella. Sino che questa cosa era diventata una cosa scellerata, falò accesi per le strade della città, nelle piazze della città, ogni anno si rischiava il morto, feriti, insomma è una cosa che è andata avanti per 10-15 anni questa cosa. E tutto questo si risolveva quasi sempre in un omaggio al boss del quartiere. E invece l'ultima volta voi che cosa avete fatto fare? Abbiamo ingaggiato ormai diventata quasi un'abitudine, un braccio di ferro, con la piena collaborazione delle forze di polizia, della polizia locale, della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza. Ci siamo messi tutti quanti d'accordo, un piano d'azione è stato fatto, interdizione totale, anche con scontri, sono state lanciate le bottiglie Molotov, comunque abbiamo impedito fisicamente a questa gente di accendere i falò nella città, e io invece ho rilanciato la vera tradizione, che è il palio dei falò dell'Immacolata, cioè si accende un bellissimo arenile, su questo arenile, chiaramente poi rimesso perfettamente in ordine dopo l'accensione, si accendono questi falò in una gara vera e propria, tant'è vero che quest'anno abbiamo premiato anche i vincitori fra i rioni, cioè cerchiamo di riportare alla vera tradizione quello di cui la camorra in qualche maniera. E poi si sa, insomma, un falò lungo la spiaggia certo è meno pericoloso che i fuochi d'artificio in città. E allora grazie anche per questa iniziativa, viva il sindaco di Luigi Bobbio di Castellammare di Stabia, diciamo noi, ci risentiamo a maggio per vedere come va con la processione, va bene? Aspettiamo, grazie. Grazie, buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, oggi all'800 24 00 24 vi chiediamo tra l'altro se siete già pronti a passare, a fare il passaggio da una vita con l'auto a una vita senza auto, quindi una vita meno inquinata e anche sicuramente meno stressata. Abbiamo un paio di ascoltatori, cominciamo con Grazia che ci chiama da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci qua, che cosa ci racconta dalla sua città, dalla capitale? Io racconto un'esperienza, sono piemontese di origine e romana d'adozione e qualche tempo, 3 anni fa, a causa di uno scippo, rimasi solo con la bicicletta per recuperare i documenti, eccetera, eccetera. E allora al mese di luglio utilizzai questo mezzo per poter far fronte all'emergenza. Poi da lì nacque un'idea e fece una domanda a un mio collega che veniva al lavoro in bicicletta già a suo tempo, e la risposta fu proprio un colpo di fulmine, insomma. Mi disse Mario, ma la bicicletta è possibile utilizzarla sempre? E lui mi rispose: la bicicletta o non la bicicletta non è una questione reale, è solo una questione mentale. E io oggi mentalmente pedalo sempre. Senta, ma lei sta a Roma adesso? Sì. Però Roma è un po' in sala di scendi, non è facilissimo andare in bicicletta. Guardi, io ho una bicicletta che ha 40 anni. L'ho comprata la seconda, perché la prima era elettrica, ma non è andata molto bene perché, vabbè, il negoziante non è stato molto corretto nell'assistenza, la bicicletta si scaricava, eccetera, eccetera, allora sono tornata all'origine. Ho comprato una bicicletta portaportese a 40 anni, una bicicletta da uomo, non ha le marce, io non sono un atleta e giro continuamente. Stasera andrò all'auditorium, se non piove, in bicicletta. Ah, benissimo, benissimo. La via Tuscolana, e lei è proprio, lo faccio sempre. È proprio la dimostrazione, cara Grazia, sì, da Roma, buona giornata. Conosce, lo sa. Che si può fare, e quindi insomma anche senza avere mezzi particolari, in una città dove, a dire la verità, insomma le strade non sono proprio il massimo per andare in bicicletta, ma si può fare, e si può fare, ce lo ha dimostrato Grazia da Roma. Edoardo ci chiama da Ascoli Piceno, buongiorno, lei che cosa ci racconta dalla sua città? Buongiorno, io vivo in una piccola cittadina lungo la costa adriatica, che naturalmente è tutta in piano, e da più di un anno e mezzo faccio lavori che io mi sono inventato, ecosostenibili e di prossimità. Cosa significa? Ecosostenibili, che utilizzando la bicicletta non inquino, e di prossimità, che mi muovo solo nel paese. Io faccio tutti quei lavoretti nelle case. Ma per esempio, ci faccio un esempio. Elettricista, idraulico che cambia non so. Cioè, vada la signora che ha bisogno di mettere il quadro, esatto, piuttosto che sistemare la scaffalatura. Esatto, ci sono tante signore anziane che non possono salire sulla scala per tirare giù la tenda, lavarla, poi rimetterla su. Io ogni volta che mi chiamano, ho un piccolo garage, metto tutti gli attrezzi nelle apposite borse, che quattro borse che ho messo nella bicicletta, e poi con la bicicletta vado, giro per il paese, la parcheggio dove voglio perché non c'è problema di parcheggio. E chi sta meglio di lei, caro Edoardo da Ascoli Piceno? Sì. Grazie per questo racconto. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Beh, insomma, avete visto che di storie ce ne sono tante. Continuate a chiamarci adesso, 800 24 00 24. Non so se avremo spazio per altre telefonate in diretta quest'oggi, e vi ricordo anche la nostra segreteria telefonica 800 28 12 12 per lasciare il vostro messaggio, salvare l'Italia in un minuto. Adesso invece parliamo di un'altra storia, la scuola che costruisce una scuola. È questo il motto che fa da sfondo al progetto Mobile School, che prossimamente vedrà gli allievi della formazione professionale dell'ENAIP Veneto. Adesso spieghiamo che cos'è l'ENAIP. Alle prese con la realizzazione di una struttura ad uso scolastico destinata al villaggio di Versege in Etiopia. Dunque una storia a metà tra cooperazione e formazione, una iniziativa nella quale, mi pare di capire, alla fine ci guadagnano tutti qualche cosa, e questa non è una cosa da poco. Ne parliamo con Andrea Olivero, presidente niente po' di meno che delle ACLI nazionali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voi avete investito molto, credo, in questo progetto, perché insomma è una cosa che tra l'altro poi ci spiegherà se è replicabile da una scuola, poi magari riuscire a farne altre. Ci racconti come nasce l'idea di questo l'idea progetto? L'idea nasce appunto dalla banalità della semplicità della cosa, ecco, nel senso che c'era bisogno e c'è bisogno di scuole mobili che si possano spostare in una zona dell'Etiopia particolarmente povera, dove vi sono popolazioni non stanziali. C'è bisogno di una struttura che possa essere messa nei luoghi più necessari ed eventualmente spostata di lì a un certo tempo, e che sia però sana, sia buona, positiva. A questo punto abbiamo immaginato di farla realizzare dai ragazzi che fanno formazione qui in Italia e che si preparano a diventare buoni lavoratori, devono imparare a inventare, a costruirsi un progetto, devono imparare a essere puntuali, precisi e a fare un capolavoro, cioè un lavoro perfetto che possa essere utilizzato per altri. E qui due appunto bisogni, quello di avere una scuola e quello di andare ad imparare un mestiere, sì, si uniscono, e a tutto questo si aggiunge la logica, quella della solidarietà, quella della cooperazione, dell'aiuto reciproco, perché quello che ci interessa fare è far conoscere a degli studenti italiani, degli, certo, studenti etiopi, e in qualche modo creare un collegamento vero. Ricordiamo anche i partner di tutta questa iniziativa. Ho detto ENAIP, l'ente per la formazione proprio delle ACLI, formazione professionale proprio delle ACLI. Quelli coinvolti sono l'ENAIP del Veneto e del Friuli, se non leggo male, l'ACLI, e poi c'è il patrocinio del Comune di Padova, del Comune di Trieste, la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia e dell'Associazione Italiana di Addis Abeba e anche di SE Project. Olivero, questa iniziativa mette anche un po' in luce un aspetto forse poco noto del nostro mondo, insomma, proprio in Italia voglio dire, della formazione professionale tecnica per i giovani. Le scuole che voi gestite devono essere naturalmente molto valide, altrimenti pensare di far costruire una scuola mobile, ecosostenibile, che poi deve essere trasportata e montata in Etiopia, sarebbe una follia. Invece voi dite non è una follia, perché i nostri ragazzi sono bravi. Sono bravi, sono bravissimi. Noi abbiamo tecnici che, finiti i nostri percorsi formativi, vanno a lavorare nel pool della Ferrari, che operano in aziende con responsabilità progettuali. Noi abbiamo sempre un po' l'idea che la formazione professionale sia un ripiego, sia di serie B, invece c'è moltissima formazione di altissimo livello, e che soprattutto appunto ha questa dimensione anche progettuale, di inventiva, di iniziativa nuova, che può spendersi diversi in tanti campi diversi, ivi compreso quello della cooperazione internazionale. C'è un altro elemento forse che non abbiamo ancora ricordato, ed è quello del coinvolgimento. Voi chiedete un coinvolgimento anche alle aziende locali, in Veneto in particolare, per darvi una mano, quindi non fondi, però, se non ho capito male, ma materiali per costruire queste scuole. Voi dite, insomma, un modo per passare da una beneficenza di tipo tradizionale, si dà un obolo, si dà una quota, invece passare ad una partecipazione diretta anche delle aziende, che quindi, diciamo, ne traggono vantaggio in termini anche di motivazioni degli imprenditori e dei dipendenti di queste aziende. Assolutamente sì, crediamo che ci sia un duplice vantaggio per loro, sia appunto quello di sentirsi all'interno di un progetto buono, positivo, che in qualche modo implementa anche il patrimonio di socialità che ogni azienda deve avere, ma dall'altro lato anche di fare delle esperienze, di cimentarsi con dei progetti anche complessi, difficili, perché sicuramente costruire una scuola mobile per l'Etiopia comporta degli elementi di complessità notevolissimi, delle necessità anche tecniche, tecnologiche raffinate per contesti nei quali peraltro bisognerà anche vigilare attentamente. E staremo a vedere, vi richiameremo per vedere come andrà a finire questo progetto. Per il momento abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, grazie Andrea Olivero, presidente delle ACLI. Un ringraziamento per la puntata di oggi anche a Stefania Tagliaferri in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Con il programma Si può fare ci risentiamo domenica prossima. Vi ricordo, numero verde 800 28 12 12, lasciate un messaggio, salvare l'Italia in un minuto, la vostra ricetta.